piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. E guarda, ma sei impazziti bracci. Finalista, vedete. Ma come vuoi da lì? Guarda quanti cazzi sono. Guarda, ma che davvero. Ma chi stava a giocare? Ma che davvero, raga, che sei da un po' favela. È un fenomeno singolare, strano. Io vivo da oltre 30 anni a Roma, non ho mai visto una cosa del genere, perlomeno al di fuori dei contesti abituali, della politica, del tifo calcistico. Centinaia di ragazzini, età media 14-20 anni, diciamo, ma forse anche meno di 20 anni, sono dati improvvisamente appuntamento nel centro di Roma. Uscivano dalle fermate della metro adiacente al centro, soprattutto nell'area di Villa Borghese, sulla terrazza del Pincio, quella che affaccia su Piazza del Popolo, ma la stessa cosa è accaduta anche a Leur, la stessa cosa è accaduta nel pomeriggio di sabato passato, fino a sera e notte inoltrata, anche in altre parti di Roma. Io ho visto assembramenti di ragazzini, diciamo, agitati, rientrando a casa un po' prima delle 22 nell'area Mazzini, quindi diciamo c'è stata una mobilitazione di centinaia di ragazzini al centro di Roma. La finalità non si è ben capita, si sa solo che ci sono state delle risse, si sono picchiati tra loro. Il tam tam di questa convocazione, di cui c'è pochissime notizie nei giornali certe, hanno interrogato un ragazzino di 14 anni, pare tutto nascesse da una sorta di faida fra due ragazzine, dovevano scontrarsi e picchiarsi, ma poi sono picchiati soltanto dei ragazzini. Ho seguito un po' il tam tam su questi gruppi che si scambiano nei vari social, ma soprattutto su Instagram, anche su Facebook. Welcome to Favelas è una formula che è declinata città per città, in cui dei ragazzi segnalano gli aspetti del degrado o le particolarità che a loro possono piacere o interessare, quindi automobili che hanno incidenti particolari, che saltano le carreggiate, che si ribaltano, poliziotti in difficoltà, arresti, risse, animali in giro per la città, volpi o cinghiali, o addirittura vedevo in quello di Roma stanno seguendo un ragazzo che ha una 500 rosa confetto e ha tenuto a specificare questa è di mia sorella, e quindi lo seguono e lo fotografano. Insomma, nei social si organizza una sorta di quelle che chiamavano le derive psicogeografiche, una cosa che ha fortemente interessato l'avanguardia situazionista, cercare nelle città dei percorsi che vadano oltre quelli convenzionali segnalati. Seguono il percorso del degrado, della singolarità e anche, diciamo, della trasgressione. Su Welcome to Favelas è stato registrato attraverso brevissimi video di cui abbiamo sentito qualche stralcio il fatto, c'erano tanti ragazzini scatenati, sembravano divertirsi, che correvano per la città e ogni tanto si scazzottavano tra di loro. Sentiamo un'altra testimonianza. Adesso mi devi sparare, tu adesso mi devi sparare, che non mi cazzo di pane, faccio un macello, tu a me non mi conosci, tu a me non mi conosci, dirò anche a tuo cugino, dirò anche a tuo cugino, dirò anche a tuo cugino, ti amano a me manità, ho visto anche a tutti, che tu sei fatto un po'. Anche qua leghiamo alcuni aspetti particolari, notiamo intorno tutti fanno ressa, si divertono, ridono come se fosse uno spettacolo. Due ragazzini si picchiano anche con una certa maestria, quindi uno dei due almeno ha studiato arti marziali o pugilato, infatti sopraffa l'altro, lo butta per terra, e poi c'è una sorta di rituale di fronte agli altri. Dice: adesso la prossima volta mi devi sparare, dillo anche a tuo cugino. Cugino emerge sempre come figura simbolica di riferimento onirico. Ecco, dillo anche a tuo cugino, mi devi sparare. Un ragazzino di 14 anni, ben vestito, mediamente civilizzato, avrà una famiglia alle spalle, dei genitori, non credo che viva in maniera brada e non credo che appartenga a gruppi di malavita organizzata, che usa il linguaggio da Gomorra per fare lo spaccone, per essere al centro dell'approvazione del gruppo, fa pensare, fa riflettere, ma io non sono scandalizzato. Ho visto di peggio nella mia lunga vita, ma c'era sempre una sorta di paramotivazione. In questo caso non riesco a capire cosa succede, soprattutto... La cosa interessante è che si prevede che accadrà la stessa cosa sabato prossimo, quindi domani probabilmente, anzi dopodomani probabilmente a Roma ci sarà la stessa convocazione con un'escalation, perché porteranno le lame, anche questo, questa sorta di linguaggio, le lame, il ferro, è una, simulare una maturità nel mondo della trasgressione che probabilmente non appartiene a questi ragazzi, però vedono i film, però leggono, si scambiano, qualcuno magari appartiene anche a giri in cui il quattume ha a che fare, perché chi ha contatti con spacciatori, con piccoli delinquenti, con procacciatori di accessori per automobiline e motorini, probabilmente ha qualche contiguità anche di linguaggio. Insomma, perché tutto questo si sposta al centro della città? Ha a che fare il Covid con questo? Ha a che fare questo senso generale di vacatio legis, in cui ognuno può fare quello che vuole? Va anche a incrementare questo fenomeno il fatto che in questo momento non si capisce bene da che parte stia il mondo, stia lo Stato, in cui anche l'opposizione politica in realtà darebbe quasi l'idea che ci possa essere un totale capovolgimento di tutto. C'è chi predica in questi giorni la disubbedienza natalizia, i diritti civili si impugnano con la coscia di tacchino, andiamo comunque dai nostri nonni e dai nostri zii a festeggiare il Natale perché non va bene starsene a casa. Beh, tutte queste sono domande che faccio a chi mi ascolta. L'800 24 0024 è il numero da cui ci attendiamo corposi contributi. Intanto introduco l'ospite di oggi, il primo ospite, Nicola Ferrigni. Buongiorno. Nicola Ferrigni, ve lo ricorderete, è stato già nostro ospite, professore associato di sociologia alla Link Campus University, esperto di temi giovanili, di devianze, ha realizzato per conto della Questura di Roma e di Terni ricerche sui comportamenti devianti della movida giovanile. Mi sembra, professore, questo sia proprio pane per i suoi denti. Ha analizzato, studiato, si è posto qualche domanda su questo fenomeno? Sì, mi sono posto più di una domanda, perché ascoltavo anche il suo intervento introduttivo alquanto puntuale. Le domande ce le poniamo un po' tutti quanti, perché non abbiamo mai assistito a delle forme di violenza così estrema, violenza gratuita, violenza con termini, no? Citava anche l'epoca fa, lame, ferro, cioè inauditi, impensabili. Negli anni 70 lei ha anche detto c'era una paramotivazione non giustificabile, però appunto era una paramotivazione che poteva essere, secondo me, nel passato ci si scontrava per territori, ora invece per visualizzazioni, perché non ci dimentichiamo poi il grande eco purtroppo sempre di social. Infatti la piattaforma Welcome to Favela, se l'hai citato, in effetti è quella piattaforma che ha documentato questa rissa a Roma, quindi cioè questa esplosione di violenza gratuita che purtroppo trova poi il suo grande eco mediatico sui social. Io sono molto preoccupato, non le nascondo questa, ma penso che lo siamo in tanti. Sicuramente vi è un discorso di stallo di Stato, del senso di Stato, ma secondo me il vero punto centrale in questa vicenda è proprio la mancanza di comunità, di società, al di là poi dello Stato che possa regolare, quindi questa vacatio legis ipotetica in questa fase un po' turbolenta e nebulosa, no? Dove c'è tutto il contrario di tutto, viviamo un momento abbastanza caotico, però proprio il senso di comunità che secondo me manca. E il giovane, sa, professore, una cosa, io, quello che è un po' meravigliato, sì, che nessuno si è posto poi questo problema. Ci siamo fatti interrogazioni nazionali su cose molto, molto meno massive, che occupavano molto meno persone. Il fatto che ci sia una mobilitazione di centinaia e centinaia, io l'ho visti per Roma, sì, in qualche momento ho avuto anche paura, proprio perché non si sa da che parte stanno. Ora, le città erano negli anni 70-80, le ricorda, divise in quartieri. Sapevi che se tu eri di destra non andavi in quel bar o in quella via, se eri di sinistra non andavi in quel bar o quella via, se no ti correvano dietro. Adesso uno si sente indifeso perché non sa con chi ce l'hanno, non sa con chi vogliono. In una strada limitrofa, a dove abito io, hanno picchiato una persona per rapinarla, massacrato di botte la stessa sera. Ma infatti è anche una riconquista anche del centro, cioè il Pincio è un luogo simbolo, è un po' come se fosse quel terreno neutrale della riconquista della, no, della parte più centrale anche di Roma, no? Quindi forse dalle borgate ci si ritrova anche lì come segno anche di riscatto, voglia di farsi comunque sentire, di però professore, lo dico, scusi se la interrompo, ma per dare senso dialettico, dalle periferie in qualsiasi città, in qualsiasi metropoli, ci sia sempre stata una transumanza del fine settimana verso il centro. Negli anni, diciamo, apparentemente più felici, era un limitarsi a occupare le vie del centro, dello shopping, delle ginserie, fare avanti e indietro, andare nei locali, respirare l'aria di una capacità di vivere la vita con strumenti di predominio sociale più importanti. Ci si può camuffare oggi perché sono tutti vestiti firmatissimi questi ragazzini, non c'è più lo stigma del vestito che segnala la classe sociale, sono vestiti con scarpe, giubbotti e pantaloni che penso che i nostri figli non se li sognano, onestamente, lo dico sinceramente. Certo. Quindi ci si può camuffare bene, perché ci si camuffa, si conquista il sancta sanctorum dell'ambizione sociale? Però per fare il rissone generale, per fare per inscenare questa violenza, che nessuno ce l'ha con nessuno, si picchiavano come se fosse un grande spettacolo di virilità, di forza, di potenza, nessuno ce l'aveva con nessuno. Una violenza di grande vuoto, tendenzialmente, secondo me è un grido estremo da parte dei giovani, il vero messaggio purtroppo è questo qui, è un richiamo estremo a voler essere comunque al centro, a voler essere ascoltati, perché appunto, ripeto, quella paramotivazione che comunque è inesistente in questo caso, secondo me è soltanto un gesto estremo davvero di dar voce ai propri, al proprio essere, al proprio vivere, poi amplificato dai social. Però guardi, io anche in questi giorni ascoltavo, ma anche ieri ho visto in una trasmissione Rai di sera, appunto, lo hanno, a chi l'ha visto, anche questo personaggio che secondo me rappresenta anche uno dei loro modelli oramai cardine, il famoso Angelo Corretini, oramai famoso, ma mi sembra assurdo parlarne, altrimenti noto come 1727, no? Questo altrimenti noto come Ho preso il muro fratelli, no? questo personaggio. Sì, lo so, è anche ospite dei nostri programmi, sì, è diventato noto per aver schiantato la macchina, sì, la fratelli. Sì. Fratelli, esatto, che è diventato un modello, cioè un personaggio che sui social aizza questa violenza gratuita, aizza a voler mostrare come non guidare, direi io, ovviamente, la macchina, sì, dicendo, diciamo, anche sdoganato dai media mainstream, che facendo vedere, esatto, il personaggio, esatto, alla fine gli si dà corpo e sostanza. È diventato un personaggio perché è apparso in televisione, è stato oggetto di interviste, se no rimaneva nell'ambito dei social, che è sempre un ambito importante, ma la benedizione l'abbiamo data noi a Fratelli, capito? Esattamente, che però ha 2 milioni di follower, che appunto sui social, ma è sui social che poi nascono queste forme di organizzazione all'impazzata, ma il modello che viene veicolato è di questo signor Angelo Corretini, che aizza la violenza, aizza comunque a voler esprimere un disagio, nel profondo disagio psichico di questa persona, che altrimenti sarebbe isolata, ma diventa a tutti gli effetti il modello di riferimento per il giovane oggi. Quindi è chiaro che proprio che è implosa. Se noi pensiamo oggi a un giovane, che chiedessimo a uno di questi ragazzini che sono andati lì al Pincio a picchiarsi fortemente in maniera gratuita, a cosa ambiscono, qual è il loro modello, qual è il loro punto di riferimento, non ce l'hanno. Quindi è chiaro che è diventato un gesto, il gesto estremo di una società che è purtroppo, lo dico con grande rammarico, ma è alla fine, è alla tutta, a tutti gli effetti, perché il valore che quello che manca, il senso di comunità, lei ha detto anche prima. Poi si va si parla per il cenone, no? Di fine anno, di Natale, di nonni, ma non, quando non vi è un senso di solidarietà. Di cioè, a me la disobbedienza civile sulla coscia di tacchino mi fa un po' sorridere, onestamente. Non mi sembra sono fra i bisogni primari di cui l'umanità si senta. Allora, professore, senta, diciamo privata. Ci fermiamo un istante, devo dare la linea alla borsa. Io pregherei, se c'è qualche genitore in ascolto, mi piacerebbe parlare con qualche ragazzo, ma non so se in questo momento ascoltano radio, ascoltano questa radio. Il numero è 800240024. Vorremmo capire meglio, alla fine, non mi scandalizzo per la gente che si diverte a fare botte a 14 anni, 15 anni. Può esserci questo momento iniziatico di entrata nell'età adulta che passa attraverso il menar le mani. Oddio, la civilizzazione ci potrebbe pensare, e potremmo anche fare altre cose che richiedono uguale impegno e ardimento, però se questo piace lo faccio. Ma perché dalle periferie si spostano e cercano il grande set di via Frattina, di via Condotti, di via Margutta, di Piazza del Popolo, del Pincio, per far vedere quanto sono buoni e quanto sono bravi a menar le mani? Ci fermiamo un istante. Melog. Tutti capocciati, c'era un botto di gente affollata, io manco riuscivo a respirare. Sono ammirati, è venuta la quattro pattuglie della polizia, dei carabinieri, allora sono iniziati a scappare. E poi quando era andato alla metro per andarsene via, quelli là con cui si era minato l'hanno inseguito e l'hanno iniziato a minare, a prendere a capocciare, gli hanno detto io ti sparo, sparami, io ti ammazzo. 800240024, parliamo dell'episodio di sabato passato, del flash mob, chiamiamolo così, visto la convocazione parte dai social, di centinaia di ragazzi al centro di Roma, nelle zone più lussuose dello shopping, del ritrovo di Roma, Piazza del Popolo, il Pincio, ma anche all'Euro, anche in altri quartieri, insomma dalle metropolitane della periferia che vanno verso il centro sono riversati centinaia di ragazzini per fare botte. C'era una rissa, c'era una sorta di sfida, poi non si sa bene, non si capisce bene. Sta di fatto che erano tutti ragazzini ben vestiti, allegri, festosi, andavano come fosse una festa a vedere altri ragazzi che si picchiavano. Questa che avete sentito è la testimonianza di una ragazzina. Ho chiesto a qualcuno di chiamare degli ascoltatori al nostro numero 800240024, mi piacerebbe sentire il punto di vista magari di qualche genitore, di qualche ragazzo che mi dà qualche elemento in più. Abbiamo parlato finora, che ancora ci ascolta, con il professor Nicola Ferrigni, che è esperto di temi giovanili, di devianze, ha lavorato assieme alla questura di Roma di Terni proprio sulla devianza giovanile. Anche lui non se lo spiega, non c'è matrice, non c'è almeno palesemente un orientamento, non sono i ragazzi della Roma che si picchiano con i ragazzi della Lazio, non sono le zecche che si picchiano con i fasci, non c'è nulla riferibile a faide passate. Probabilmente sono guerre tra quartiere, guerre tra piccole bande non in senso negativo, ma in senso di organizzazioni, di ragazzini che vivono in certe zone, che si confrontano e scelgono come set del loro confronto fisico il grande salotto della Roma terrazziera. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, niente, purtroppo come medico posso dire soltanto una fredda realtà, che si tratta di ragazzi non assolutamente controllati dai nuclei familiari, e questa è la tragedia, Che sono imbottiti dalla mattina alla sera, ad iniziare dai 12-13 anni. Abbiamo letto i recenti episodi di cronaca dei due ragazzini che hanno ucciso quello spacciatore, no? Ecco, e sono in preda a droghe, cioè alcol, ecstasy, cocaina, già dalla tenera età. Quindi diciamo, questo fenomeno di massa ha come, diciamo, suo elemento additivo, ma forse come suo carburante, il fatto che erano tutti un po' stravolti, quindi si facevano un po', sono si impasticavano. Sono quasi sempre incapaci di intendere e di volere dal punto di vista medico, perché chi assume diciamo costantemente sostanze dopanti come la cocaina o l'alcol vive al di fuori della realtà e quindi ripetono degli schemi che loro poi vedono su queste tecnologie virtuali. Allora, ve le faccio una domanda, dottor Stefano, visto che mi aiuta a ragionare. Secondo lei può esserci, poi chiederò anche ai nostri ospiti, una carenza di eventi epici? Allora, questi ragazzi non vanno più il sabato sera in discoteca dove si sballavano, facevano a botte, facevano comunque cose del genere, ma con la musica, col contesto. Non vanno più allo stadio e quindi non si possono più accalorare per la loro squadra. La politica non ne parliamo, per loro non è mai esistita probabilmente, se non nel ricordo più remoto. Non ci sono i rave party, non ci sono più le occasioni per dare una sorta di dimensione di massa al divertimento dello sballo collettivo, perché sennò se ne starebbe ognuno a casa sua chiuso nella cameretta a farsi e strafarsi. No, deve essere qualcosa, sono droghe che danno l'idea della collettività, sono impactogeni, funzionano proprio perché aiutano il contatto e alimentano il contatto. Quindi può essere che questo contatto, alla fine, non avendo altro modo per esprimersi, va a esprimere nel posto più bello della città, nel posto più ambito, nel luogo più inviolabile. Certo, allora innanzitutto io la ritengo un'involuzione di tipo tribale, cioè quando praticamente dei gruppi che stanno in quelle condizioni psichiche non hanno altro posto dove farsi notare se non situazioni sociali come quelle che lei ha descritto, cioè andare nella zona più snob di Roma, va bene, cioè lì questo sfogo della violenza che loro evidentemente trovano come unica situazione vitale, cioè loro si sentono vivi soltanto così, perché in famiglia non hanno dialogo, con le istituzioni non hanno dialogo. La scuola è chiusa, mettiamoci anche questo. Sì, però questa non è una situazione che diciamo è di 2-3 anni relativa al Covid, è una situazione ormai osservata diciamo dalla scienza ufficiale, dai sociologi, ma almeno da 15 anni è così. Però è questo molto, segnale originale della rissa organizzata di centinaia di persone che si riversano simultaneamente al centro di Roma, fanno un grande spettacolo, un fight club generalizzato, nella semi indifferenza alla fine dei media, perché non c'è stata una grande attenzione, ci si è occupati di altre cose, era più importante vedere cosa dicesse Conte, cosa dicesse Salvini, cosa dicesse la Meloni, cosa dicesse Renzi, siamo tutti stati occupati dal vaccino, giustamente, altre priorità, quindi tutto sommato non hanno avuto l'eco che loro si aspettavano, infatti alzano il livello, l'escalation è che adesso dico ci verremo con le lame, con le pistole. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Ferrindi ci ascolta, poi sentiremo anche lui nell'ultima parte, psicologa, psicoterapeuta, presidente Osservatorio Nazionale Adolescenza. Maura, siccome ti conosco e ci parliamo da tanto tempo, cosa si può dire di originale rispetto a quello che hanno già detto di noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei nostri nonni, che mancano i valori, che siamo senza obiettivi, via dicendo? Qual è l'elemento originale in questo fenomeno, se c'è un elemento originale? C'è un elemento originale, la proporzione, cioè nel senso che non è vero che non si sono mai dati appuntamenti usando che cosa? Il loro mezzo di comunicazione, nel senso che a me non mi meraviglia che utilizzino il social è il mezzo per parlare, per relazionarsi, per comunicare, per cui anche per darsi l'appuntamento per picchiarsi, ma non ci dimentichiamo Piazza Cavour, pieno centro di Roma, che tantissime volte è stato teatro. Ah, si accoltellarono, ci fu pure un episodio, esatto, criminoso, sì, grave, un ragazzo accoltellato, ragazzi, mi ricordo. Ma a Piazza Euclide, altri sempre luoghi centrali, quindi non è l'evento, cioè non è... Lì erano, diciamo, borgatari prima, contro Pariolina, adesso non so, gente di Prati contro gente di un altro quartiere, c'erano, sì, delle faide fra quartieri. Al Pincio è successo tantissime volte, io quando sono venuta a Roma più di 20 anni fa capitavano risse al Pincio tra periferie, tra il centro, tra tante cose. Non è la rissa il problema, perché questi gruppi si sono sempre dati anche appuntamenti. È ovvio che quello che è successo è che il mezzo tecnologico ha creato un'amplificazione della situazione, facendolo diventare un evento, cioè un evento a cui partecipare, perché io poi mi sono confrontata con tanti ragazzi anche che erano lì a fare il pubblico, erano gasati. Era l'evento del momento, dell'anno, forse dopo tutto. Quindi era il grande momento, spettacolo che andava a sostituire il concerto in piazza e altre cose. Diciamo, in questo momento, sì, l'evento era vedere le due ragazze, si sperava, che poi non si sono viste, mi sembra, sono visti i ragazzi, che si accapigliavano tra di loro. Quindi l'evento, ma sembrava di essere tornati, che ne so, nei paesini del Far West di Sergio Leone, in cui c'è la rissa al saloon. Ci fermiamo ancora un istante, Mauro, poi riprendiamo. Melog. .800 24 0024, riapriamo con il rumore del tumulto, delle risse organizzate al centro di Roma, ma avvengono anche in altre città, mi stanno dicendo, con meno enfasi, con meno impatto, con meno numeri, rissa organizzata attraverso i social, ne stiamo parlando con serenità, senza strapparci le vesti e pensare che il mondo stia cambiando, però è un dato che in un momento particolare in cui mancano altre forme di aggregazione, dei ragazzi si riversino verso il centro della capitale per fare a botte. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Mi sente bene, dottor Nicoletti? Sì, sì, la sento bene. Il suo punto di vista mi interessa. Il mio punto di vista è semplice. Io sono un ex pugile, 5 volte titolo italiano, 4 volte sono stato un ex buttafuori. Le posso dire, la case history è molto importante in questo caso. Tutte le risse che accadono, tutte, guarda, glielo posso dire, 99 su 100, eccetto per le persone che endemicamente hanno dei problemi, hanno delle patologie di contenimento dell'ira, sono dovute alla droga, non tanto al consumo di droga, ma alla vendita della droga stessa, e quindi recupero di soldi o cose di questo tipo. Io questo glielo posso dire in virtù anche della mia esperienza e di aver, purtroppo, ho visto anche delle risse che sono finite anche con il morto, ok? Le posso assicurare che tutto quello che accade in questa violenza tra giovani accade sempre per motivi legati. Ma anche giovani di età molto, molto piccola, cioè questi avevano età da 14 a 18 anni, scarsi, erano tutti bambini, guardi, praticamente. Guardi, io glielo posso dire, lei si deve fidare di una persona che... Ma mi fido, sì, Francesco, è la sua una testimonianza, che interesse ha dirmi cose che non corrispondono alla sua esperienza, guardi, è chiaro? Guardi, anche tra lei non può immaginare quanti ragazzi di 14 anni potrebbero fare la scuola a lei, a me e a tutte le persone che hanno chiamato prima, spiegando cosa succede, le sostanze, tutti una serie di atteggiamenti che ci sono tra giovani, che noi molto probabilmente li abbiamo imparati quando avevamo 35-40 anni. Ora questi ragazzi sono precoci in tutto. Cioè, tutto questo atteggiamento, io penso che poi c'è anche un'altra cosa, l'atteggiamento giustificazionista che c'è nei confronti del consumo della droga, ok? Lo sdoganare anche certi tipi di sostanze, tipo la cocaina, oppure pensare che non sia deleterio consumare dell'erba o pasticche o cose di questo tipo, sta facendo sì che stiamo crescendo una generazione di ragazzi che ha un gap nei confronti della nostra, che è veramente impressionante. Mi dice una cosa, Francesco, mi interessa anche l'escalation, diciamo, lessicale, parlare di ferro, di lame, realmente poi corrisponde a un uso anche di questi oggetti, diciamo, a offendere, che va oltre fare la scazzottata e rientra proprio nelle menti criminali. Girare con un coltello, girare con una pistola, che è già difficile trovarla più di un coltello, il coltello può avercelo chiunque, significa già avere una sua predisposizione a delinquere. Il coltello non si porta in tasca se non per dare coltellate. Personalmente detengo armi da fuoco legalmente riconosciute da legalmente detenuti, scusi. Ma lei fa un altro mestiere, il discorso, cioè, il suo mestiere è quello, fa la guardia, butta fuoco. No, ho fatto per pura passione mia. Guarda, glielo posso dire, vado a ritroso negli anni, avevo 14 anni, non è cambiato niente. A 14 anni c'erano i figli di delinquenti, io vivo nella provincia di Milano, figli di delinquenti che per fare il gradassi, gli smargiassi, come tanto per dirne, per usare un termine letterario, andavano in giro con il ferro sotto la sella del motorino. Questo glielo posso dire, che succedeva già tanti anni fa. Questi anni la cosa è diventata più endemica, si sono sdoganate con l'uso dei social, c'è tanta gente che comunque mette fotografie, immagini di atteggiamenti riprovevoli in condivisione con tutti. Chiaramente la cosa ha assunto dei ruoli sicuramente più endemici. Sì, perché non mi sento di dire che tutti quei ragazzini, lo guardate con attenzione quei filmati, appartenessero, diciamo, a frange a rischio della società, cioè non venivano da famiglie in cui, diciamo, gli atteggiamenti delinquenziali erano la norma. Erano ragazzine ben vestite, carine, ben pettinate, e si vedeva che... Questo non lo può dire, cioè questo, guardi, l'atteggiamento, il tono giudicante nei confronti di qualcuno solo perché è vestito in un determinato modo, guardi, io vivo tra due città, tra Milano e Venezia, le posso dire una cosa, a Venezia le persone sono mal vestite eppure appartengono a certi tipi di società, a Milano le persone sono ben vestite, tutte, quasi tutte, e le posso dire che non ci metterei tanto la mano sul fuoco, sulla bontà delle persone, su quello che... Ma questo poi è una questione di mondo. Quindi insomma, ormai, diciamo, il dress code non conta più, non è più significativo di un comportamento. Ma mi scusi, ma lei è un uomo di mondo, non è un uomo di cultura. Lei può veramente pensare che un abito di Gucci o un abito di Prada, piuttosto per fare due nomi a caso, possa fare veramente la differenza? No, ma sì, no. Io dico, non è il Gucci o Prada, è la freschezza, si vedeva che molti erano trascinati, diciamo, c'era probabilmente una punta di persone che fanno i trascinatori, molti sono trascinati, mi sembra un po' allargato, non mi pare venissero tutti, non mi sembravano persone che venissero da ambienti particolarmente degradati, ecco, questo non mi sembrava. Però vede, se lei guarda Suburra, la serie su Amazon Prime che parla delle bande mafiose, paramafiose di Ostia, sono tutti vestiti con abiti super firmati. La sigla mi dice che non posso più far parlare Mauro Manca e Nicola Ferrigni, ma mi prendo l'impegno con loro di tornare. Volevo privilegiare l'ascoltatore perché portava una testimonianza di strada che mi sembrava in questo momento importante. Chiedo scusa ai miei ospiti e rimando con loro il seguito di questa trasmissione.